i nomi da dare alle cose, i nomi delle cose. I nomi sono importanti. Noi avevamo 19-20 anni e un giorno andiamo su al Monte Tancia, il monte che sta sopra il nostro paese, Poggio Mirteto, e incontriamo un signore che faceva le escursioni, e questo signore ci chiede: ma perché non fate uno spettacolo sulla battaglia del Tancia? La battaglia del Tancia? E noi non ne sapevamo nulla. Ma sì, non lo sapete che qua durante la guerra c'è stata una grossa battaglia fra partigiani e tedeschi? E noi no, non ne sapevamo nulla, niente. Eppure erano storie che se qualcuno ce le avesse raccontate le avremmo ascoltate volentieri. E lì iniziamo a fare delle ricerche. E il signore ci fa: ma perché, che vi credete? I nomi delle vie di Poggio Mirteto, a chi pensate che sono intitolati? E noi non lo sapevamo. Infatti erano nomi strani, i nomi delle strade di Poggio Mirteto erano nomi che non trovavi da nessuna parte. C'era via Giuseppe De Vito, via Diego Eusebi, piazza Mario Dottori, via Giuseppe Felici, via Fratelli Bruni e via Ottorino Caproni. E poi c'era la piazza principale del paese, quella al centro, che aveva un nome strano, banale se vogliamo, e il nome poi che ha dato io il titolo, insomma, del nostro spettacolo. E la piazza principale del nostro paese è Piazza Martiri della Libertà. Settembre, armistizio. Quelli che erano amici diventano nemici e quelli che erano nemici diventano amici. C'è gran confusione. Molti militari, soldati italiani, gettano il fucile e vanno verso l'unica cosa sicura che hanno da difendere: la loro casa e la loro famiglia. 8 settembre si forma il CLN, Comitato di Liberazione Nazionale. Aderiscono al CLN tutti i partiti antifascisti: Partito d'Azione, Democrazia Cristiana, Partito Comunista, tutti. Ogni partito organizza le proprie formazioni partigiane e prendono diversi nomi, sigle, a seconda dei luoghi dove agiscono. Ci sono i GUM, i GAS, i SAP, i GAP. I GAP sono i nuclei speciali dei partigiani e agiscono nel centro delle città, dove è più rischioso. A Roma si formano due GAP centrali, uno comandato da Salinari, l'altro da Calamandrei. Nel gruppo di Salinari, fra gli altri, ci sono Carla Capponi, Rosario Bentivegna. Bentivegna in Sabina lo conoscono tutti perché ha i nonni a Poggio Catino e viene tutte le estati su al Monte Tancia. C'è Giordano Sangalli, morto il 7 aprile del 44 nella battaglia del Tancia, e c'è Giuseppe Felici, che è un ragazzo di Poggio Mirteto, che poi è morto l'8 aprile del 44 alle Fosse Reatine. 9 settembre, Roma, Porta San Paolo. E lì c'è Giuseppe Felici, il ragazzetto di Poggio, sta lì davanti a Porta San Paolo, parte via Ostiense e giù lungo via Ostiense i tedeschi. I tedeschi arrivano, ma i militari rimasti a difendere Roma sono troppo pochi, e per la prima volta civili italiani ricevono armi dall'esercito. È la prima volta che civili italiani combattono contro i tedeschi. Si dice che a Porta San Paolo, a Roma, nasca la resistenza. 9-10 settembre. I tedeschi entrano a Roma, ma la dichiarano città aperta. Ma non sarà così, perché la occupano e ci fanno quello che vogliono. 9 settembre, Monte Rotondo. A Monte Rotondo c'è una sezione dello Stato Maggiore dell'Esercito e si combatte a Monte Rotondo. I tedeschi scendono dall'alto coi paracadute. Ta-tan-ta-tan, ta-tan-ta-tan, ta-tan-ta-tan. I pendolari di Poggio che tornano col treno da Roma vedono lungo la ferrovia a Monte Rotondo cadaveri. Ta-tan-ta-tan, ta-tan-ta-tan. Anche a Poggio Mirteto c'è una sezione dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano. Le armi, bisogna togliere le armi, bisogna togliere le armi. I militari rimasti a Poggio Mirteto sono in tutto 5. Già da qualche tempo però sul Monte Tancia si nascondono alcuni ragazzi che di andare a fare il militare per la Repubblica di Salò non ci pensano proprio. Il primo che ha dormito su da solo è Eugenio Meneghino. È andato ad occupare alcune capanne che avevano costruito le famiglie ricche di Poggio Mirteto. Se le erano costruite su in montagna per stare tranquilli al sicuro, poi le famiglie ricche avevano capito che in montagna al sicuro non ci si stava. E allora queste capanne su al Monte Tancia, vicino Casaleferri, le occupano i partigiani. Il primo Meneghino, poi è arrivato un altro, poi un altro, poi un altro. Insomma, i militari di Poggio Mirteto si incontrano con i partigiani del Tancia e insieme a loro prendono tutte le armi che stavano al deposito, alla vetreria, nell'altro deposito, dentro le scuole elementari. Le prendono e le portano nella cantina di Pietro Aspromonti, famoso antifascista. Dice: perché è famoso Pietro Aspromonti? Perché lui ha avuto 4 figli, tutti maschi. Il primo l'ha chiamato Rivo, il secondo Nario, il terzo Luzio, rivoluzionario. Il quarto l'ha dovuto chiamare Benito, ma per tutta la vita se lo incontravi lo dovevi chiamare Libero, rivoluzionario libero. Insomma, prendono ste armi e le portano nella cantina di Pietro Aspromonti, giù a Poggiovecchio, e poi di notte le portano con i muli su al Tancia e le sotterrano. In pochi giorni Poggiomerteto cambia, i tedeschi la occupano. Nel deposito alle elementari, lì c'era il deposito dell'esercito italiano, e diventa il deposito dei tedeschi. I tedeschi arrivano, e quando arrivano tutti quanti i poggiani, siccome a Montrotondo erano arrivati coi paracadute, tutti quanti i poggiani vanno sopra con le Pulcino, con colle, sopra il paese, stanno lì, aspettano, moglie, tiro due schioppettate, solo che i tedeschi arrivano coi sidecar a Poggiomerteto, fanno un primo giro della piazza e tutta la gente scappa, va via, si nasconde, fanno un secondo giro della piazza, fanno un terzo giro della piazza, poi i tedeschi si fermano, dove vai coi sidecar dentro Poggio, che sono tutte scalette. I tedeschi precisi, a una certa ora del giorno i camion che parcheggiavano in passeggiata sotto i platani, così gli aerei non li vedevano, sti camion dovevano essere caricati e partì verso il fronte, verso Cassino. I tedeschi precisi, puntuali, il primo giorno, quando è ora di caricare i camion, escono dalle scuole e coi mitra si mettono a fermare tutta la gente che stava in giro per paese e li mettono lì a caricare sti camion. Dal secondo giorno pure i poggiani sono diventati precisi, puntuali. Quando era ora di caricare i camion, in giro per Poggio non si faceva più vedere nessuno. I cattivi di questa storia sono quasi tutti a Rieti. Rieti, hotel 4 stagioni, Platz Commander tedesco, lo comanda Karl Behatz, poi sostituito da Ludwig Schanze, insieme a lui il maresciallo Mayer e il capitano von Gladstatten. Capofascista della sezione di Poggiomerteto, invece, Renato Tuzzi. In Sabine intanto si formano numerose squadre di partigiani, tutte ad una decina di uomini, a Cottanello, a Magliano, Stimigliano, Gavignano, a Vacone, e a Poggiomerteto c'è il gruppo più numeroso, si chiama Squadra di Sabotaggio. Lo comanda il gruppo di Poggiomerteto Triestino Redento Masci, comanda lui, mi piace pensare che comanda lui perché è il più grosso. E i partigiani di Poggiomerteto sono gli unici in tutta la provincia ad avere armi, e sì, perché hanno svuotato il deposito alle elementari e hanno casse di pistole, mitragliatrici, munizioni e casse d'esplosivo, ma non lo sanno usare. Arriva Labò, arriva Giorgio Labò, Giorgio Labò. Giorgio Labò va dai partigiani del Tancia a spiegargli come si usa l'esplosivo. Era uno dei cinque militari che stavano lì a Poggiomerteto. Prima di andarsene anche lui verso Roma, fa un salto su al Monte Tancia a vedere come stanno messi sti partigiani su. Sta con loro un'intera giornata, gli spiega come usare l'esplosivo e poi in cinque scendono dal monte, passano per Poggiomerteto e lo accompagnano giù a valle verso il Tevere. Labò deve prendere il treno e tornare a Roma. In quel momento, parcheggiati alla stazione di Poggiomerteto, ci sono. C'è il treno di Mussolini, parcheggiato, nascosto, coperto, in un binario morto. L'hanno messo nella stazione di Poggio al sicuro, perché le stazioni a Roma potevano essere bombardate. C'è un treno tedesco carico di grano e c'è un altro treno tedesco pieno di armi. E in coda? In coda al treno, due cisterne di benzina. Una cisterna aperta. Goccia giù la benzina, allora i partigiani escono dalla stazione e fanno la conta per non andare. Tocca a Triestino Redento Masci, secondo Giorgio Labò. Entrano dentro la stazione e prendono una sigaretta, legano intorno alla sigaretta, ma un po' più in basso, dei fiammiferi, accendono la sigaretta e fumano e aspettano che la sentinella tedesca s'allontani. Poi gettano la sigaretta dove cade la benzina. La benzina non prende fuoco subito, perché per ardere la benzina ha bisogno della fiamma. La sigaretta si consuma, i partigiani escono dalla stazione, poi la sigaretta si consuma e arriva ai fiammiferi, prendono fuoco i fiammiferi, la cisterna piena di benzina esplode, la benzina in fiamme inonda tutta quanta la stazione, il treno carico di armi esplode, il treno carico di grano in fiamme, il treno di Mussolini in fiamme. Una società stava costruendo l'acquedotto del Peschiera, un deposito di dinamite esplode, una colonna di fumo alta 100-200 metri salza su dalla stazione e i tedeschi guardano per aria, perché pensano a un attacco aereo. Giorgio Labò va a Roma e diventa artificiere dei GAP centrali romani. Arrestato a causa di un tradimento insieme a Mattei nella Santa Barbara dei GAP a Via Giulia, viene portato a Via Tasso, carcere speciale delle SS. resisti almeno 24 ore. Se sei catturato, dai tempo agli altri di nascondersi. Resisti alle torture almeno 24 ore. Non lo so e non lo dico, non lo so e non lo dico. Gli altri dalle celle di via Tasso sentono la boa sotto tortura che urla. Non lo so e non lo dico, non lo so e non lo dico. Resisti almeno 24 ore e dai tempo agli altri di nascondersi. Gli altri si devono accorgere che sei stato catturato. Resisti alle torture almeno 24 ore. Non lo so e non lo dico, non lo so e non lo dico. Mattei, dalla cella, sente il suo amico, la boa che urla. Non lo so e non lo dico, non lo so e non lo dico. Mattei si stacca le bretelle e si impicca. Ha paura di non resistere 24 ore sotto quelle torture. Non lo so e non lo dico, non lo so e non lo dico. Non parla Giorgio Labò. Viene ucciso a Forte Bravetta nel marzo del 44. Dal libro Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, la lettera Labò l'ha dettata al cappellano davanti al plotone d'esecuzione perché un'infezione alle mani gli impediva di scrivere. Labò Giorgio Di Mario, di 24 anni, nato a Modena, recarsi dal professor Argan, via Giacinto Carini 66, Monteverde, filobus 129. Pregarlo di informare la famiglia che lui è passato con la massima serenità. La Sabina in questo momento della Seconda Guerra Mondiale è una zona strategica. I tedeschi, per rifornire il fronte a Cassino, non usano le vie lungo le coste, troppo rischioso, ci sono i bombardamenti. Allora strade come la Salaria, la Ternana sono fondamentali. E poi c'è la ferrovia, Roma, Poggio Mirteto, Orte, Germania. È l'unica che c'è, è l'unica che usano. E lì i partigiani attaccano i depositi di armi, provano una prima volta a far saltare il ponte di Galantina, dove passa la ferrovia. Ma sotto il torrente Aia è secco quasi tutto l'anno e così hanno sprecato decine di chilogrammi di tritolo perché sono arrivati i tedeschi con quattro crick e l'hanno rimesso su. Poi un ferroviere dice a Triestino Redento Masci, che comanda la squadra di sabotaggio di Poggio, gli dice: ma voi state perdendo tempo. E perché? Fate saltare i pali della linea dell'elettrificazione e dopo davvero non camminano più. Fate saltare un palo di quelli e saltano giù centinaia di metri di linea aerea. E i tedeschi per 2 mesi hanno camminato fra Poggio Mirteto e Orte con le locomotive a vapore. I partigiani del Monte Tancia non hanno una guida politica, non ancora. Agiscono solamente contro qualcuno, ma non per qualcosa. Personaggi fondamentali di questa storia sono Diego Eusebi e Giuseppe De Vito. De Vito è tornato nel 1936 dall'Africa, in Malawi, con gli inglesi. Ha gestito imponenti piantagioni di tè, tabacco. Torna al paesello e gli offrono la carica di podestà. Lui non è fascista, però accetta. Meglio io che un altro, pensa. Insieme a Diego Eusebi, ventenne, che lavora al consorzio agrario, e insieme a buona parte della popolazione del paese, invia tutti i giorni generi alimentari ai partigiani del Tancia. E un altro personaggio importante è Aurelio Fantoni. Questo qua, prima di andarsene da Poggio Mirteto, perché era uno dei 5 militari rimasti, prima di andarsene anche lui fa un salto su al Monte Tancia a vedere come stanno messi sti partigiani, sti ragazzetti del paese. E no, non va bene! Ma qua dove siete a Casale Ferri? Qua siete troppo vicini alla strada. Qui arrivano con le autoblinde e vi catturano in 5 minuti. Dovete spostare il campo base e fare un piano di difesa. Vabbè, ve lo faccio io. Spostate il campo base da Casale Ferri a Rocco Piano e mettete 3 punti d'avvistamento sulle 3 strade che salgono al Tancia. Uno sull'Arcucciola verso Rieti, uno sopra Poggio Catino e uno sopra Poggio Mirteto. Sull'Arcucciola, che è il monte più inespugnabile, lì piazzate l'ultima difesa. Se siete attaccati dovete radunarvi tutti lì e poi cercare di rompere l'accerchiamento. E i partigiani del Tancia seguono il consiglio di Aurelio Fantoni e proseguono con le loro azioni. E le strade del Monte Tancia e le strade di tutta Italia si riempiono di cartelli. Cartelli dove è scritto Achtung, Banditen. Attenzione, banditi. Banditi. Eh già, i partigiani mica sono un esercito regolare. Se un partigiano viene catturato, non ha a difenderlo le convenzioni internazionali. Convenzioni che tanto i tedeschi non rispettano. Devi sta a casa, ma come devo fare io con te? Devi sta a casa, non te devi muovere, devi sta a casa. Ma come devo fare a capire io, eh? Il papà di Vittorio Cortese è disperato. Vittorio Cortese ha 15 anni in questo momento della seconda guerra mondiale, è una specie di prezzemolo, ogni volta che succede qualcosa Vittorio Cortese ci sta in mezzo. Il padre di Vittorio Cortese è il guardiano delle carceri di Poggio Mirteto, che lui non è fascista, però c'ha la tessera, perché quello è... vabbè, insomma, non è che lo vedono tanto bene in paese. Però Vittorio Cortese c'ha una sorella che si chiama Adriana. Adriana è fidanzata con Peppino Savelli, che è un partigiano che sta su al Monte Tancia. Ecco, quasi tutte le sere Peppino Savelli scende dal Monte Tancia e va lì a trovare Adriana, e quando si mette lì a parlare con Adriana, il padre di Vittorio Cortese è tanto contento che Vittorio Cortese sta lì in mezzo tra loro due. Poi ogni tanto però Peppino Savelli, invece di stare con Adriana, si ferma anche a parlare col padre di Vittorio. Ecco, quando parla col padre di Vittorio Cortese nessuno può sentire quello che si dicono. Allora Vittorio Cortese si avvicina alla porta e ascolta. Consegnateci 50 kg d'oro e vi lasciamo tranquilli. I romani della religione ebraica non ce li hanno sti 50 kg. Allora l'altra gente li aiuta. Sì, sono un po' strani, dice la gente, ma non hanno mai fatto male a nessuno. Chi non dà oro dà argento, soldi. Trovano i 50 kg, li consegnano e stanno tranquilli. Abbiamo saputo che stanno rastrellando ebrei nella zona della sinagoga di Roma. Li caricano sui treni e li portano in Germania, dice, a lavorare. Roma ha dato a noi l'incarico di risolvere la faccenda. Ci manca l'esplosivo, dovrebbe essere Roma a fornircelo. Non lo dire a nessuno. L'attacco è previsto per il 23 ottobre, a mezzanotte. Il 16 ottobre del 1943 a Roma vengono arrestate più di 2000 persone, 1000 prese per sbaglio. Gli altri 1000 romani di religione ebraica vengono portati a Roma Tiburtina, caricati su un treno, e partono. Roma, Poggio Mirteto, Orte, Germania, Polonia. Sta scritto che dei 1007 ebrei romani ritornano vivi 16 uomini e una donna. Il 23 ottobre del 43, quando i partigiani del Monte Tancia provano di nuovo a far saltare il ponte di Galantina sulla ferrovia, gli ebrei sono già passati, ma loro non lo sanno. Non lo dire a nessuno. La sera del 23 ottobre, mezzo Poggio Mirteto sta inguattata dietro le finestre e guardano tutti quanti giù verso la valle del Tevere. L'attacco è previsto per mezzanotte. Mezzanotte? Mezzanotte e mezza. Niente. Scendono dal Tancia 20, 21 persone, perché hanno 3 casse di tritolo, che sono 3 quintali. Un gruppo più numeroso supera la ferrovia e si ferma giù verso il Tevere, sotto una grande quercia, a preparare l'esplosivo. In 3 risalgono il torrente Aia che è secco quasi tutto l'anno, ma non quella sera. È piovuto molto, c'è fango, c'era l'erba medica alta così, non ci si vedeva manco a bestemmia. In 3 risalgono il torrente, ma Franco Bonanni rimane impigliato col fucile in un cespuglio e parte un colpo. Torce elettriche, sentinelle tedesche sul ponte della ferrovia. La luce, bisogna colpire la luce, spara, Mario Dottori, spara, Mario Dottori, spara! Il mitra di Mario Dottori, però, il mitra non ha il parafiammelle e si riconosce il tiro. Prima raffica tedesca, alta. Seconda raffica tedesca. E vanno via i partigiani. Riscendono giù lungo il torrente Aia, vanno dagli altri che stavano ancora preparando l'esplosivo e devono scappare di corsa perché rischiano di essere chiusi. Da una parte c'è il Tevere, dall'altra c'è la ferrovia. Allora Vittorio Allegrini dice a uno di questi partigiani di Roma che avevano rimediato l'esplosivo, gli dice: ma mo che fate qua, questo esplosivo lasciate in mano ai tedeschi? No, no, voi andate, andate, che ci pensiamo noi qua. Mezzanotte e mezza, l'una, e poi un forte bagliore, un forte boato. Mezza Poggio Mirteto andò a dormire felice quella sera. Rimane però il corpo di Mario Dottori sul letto del torrente Aia, che è secco quasi tutto l'anno. I tedeschi prendono il cadavere e lo portano in paese, prima a Gavignano, poi a Poggio Mirteto. No, no, non so chi sia. No, non è di qua, mai visto. La gente, il pretore di Poggio Mirteto fanno finta di non riconoscerlo per evitare ripercussioni alla famiglia. Il papà di Mario Dottori lavora all'ufficio postale, a Rieti. Mario Dottori è il primo partigiano morto in Sabina. Con l'arrivo del gennaio 1944 i partigiani del centro Italia si organizzano e si riuniscono in 3 grandi gruppi: Gran Sasso in Abruzzo, Monte Amiata e Monte Soratte. Gennaio 1944. Lo sbarco a Anzio. I partigiani a Roma pensano: è fatta, fra poco gli americani arrivano. Organizziamo l'insurrezione popolare. Quando gli americani arriveranno a Roma, la troveranno già libera. I gap centrali vengono sciolti. I partigiani dei gap centrali vengono inviati nei quartieri. Rosario Bentivegna, ad esempio, viene mandato a Centocelle e insieme alla gente del quartiere lo libera. A Centocelle fascisti e tedeschi non ci sono più. Gennaio 1944. Appoggio Mirteto. Giuseppe Felici, che fa parte dei GAP centrali romani, Giuseppe Felici che abita però a San Valentino, una frazione sopra Poggio Mirteto, verso il Tancia, ecco, Felici sa che una sua vicina di casa, la signora Pia, tiene nascosto dentro casa un fucile. E che ci fa la signora Pia con quel fucile? E invece quel fucile lì ai partigiani del Tancia serve, va lì, glielo chiede, ma la signora Pia non glielo vuole dare, anzi, lo minaccia. Minaccia di denunciare Giuseppe Felici a Renato Tuzzi, il capo fascista, giù a Poggio Mirteto. Giuseppe Felici allora prende una bomba a mano, gliela lancia nella credenza, poi prende il fucile e torna su. Boom! La signora Pia parte da San Valentino e scende a Poggio Mirteto. Denuncia Giuseppe Felici a Renato Tuzzi. Renato Tuzzi parte da Poggio Mirteto e sale a San Valentino. Bussa a casa, apre il padre. No, Giuseppe non c'è in questo momento, non lo so quando lo potrete trovare. E arresta il padre. E quando lo arresta, gli ruba, gli strappa via davanti a tutti la catenina d'oro che ha al collo. Il giorno dopo, all'osteria Pini, in località San Luigi, e ci stanno dentro alcuni tedeschi che cantano, ridono e bevono. C'è il capitano von Gladstatten che suona la fisarmonica. Fuori dall'osteria, partigiani. Fuori dall'osteria c'è Giuseppe Felici insieme ad altri che sente il capitano von Gladstatten che suona la fisarmonica. I partigiani entrano dentro, c'è una sparatoria. Alla fine, due tedeschi uccisi, più un ragazzo di Pisa che non c'entrava niente, ma Giuseppe Felici ritorna sul Monte Tancia con un ostaggio. È un ufficiale tedesco, vuole barattare l'ufficiale tedesco con suo padre, detenuto al carcere di Santa Scolastica a Rieti. I tedeschi però, minacciano feroci rappresaglie. La madre di Giuseppe Felici sale su al Monte Tancia, convince il figlio a rilasciare l'ostaggio. Giuseppe Felici allora parte, se ne va via da Poggio Mirteto. Vuole andare a Terni. Lì c'è la brigata Gramsci, che è molto grande. Vuole entrare in contatto con la brigata Gramsci di Terni, organizzare un assalto al carcere di Santa Scolastica a Rieti e liberare il padre. Non lo sa che il padre al carcere di Rieti non c'è più. Lei non può non essere a conoscenza dell'attività di suo figlio. Condannato ai lavori forzati, viene deportato in Germania, nel campo di concentramento di Dachau. Il giorno dopo la sparatoria, i tedeschi però, in località San Luigi, fanno un rastrellamento e fermano 18 persone. Fra loro fermano anche Ottorino Caproni. E lui ha preso parte alla sparatoria. Viene portato a Rieti, interrogato, torturato, confessa: sì, sono stato io, l'ho fatto, lo rifarei ancora. Processato, condannato a morte, fucilato il 1 marzo, il corpo di Ottorino Caproni torna da Rieti con un telegramma. Nel telegramma c'è scritto: niente esequie, le campane non devono suonare e il corpo deve essere portato in fretta al cimitero. Gennaio, febbraio, marzo. E gli americani stanno ancora fermi lì, Anzio, e non si muovono. I partigiani a Roma non ce la fanno più a resistere. Centocelle cade. Centocelle ritorna in mano ai tedeschi e ai fascisti. Ma i partigiani romani, che fino a quel momento erano rimasti in clandestinità, adesso sono usciti allo scoperto. Tutti sanno chi sono, che faccia hanno. E per loro restare a Roma è troppo rischioso. Così partono per i monti del Lazio, nel Viterbese, ai Castelli, sul Monte Tancia. Manni e Franchillucci portano un centinaio di partigiani romani. Arrivano di notte. La mattina, verso le 4, Vittorio Allegrini sale su al Tancia e vede Reden Tomasci, che fino a quel momento ha comandato la squadra di sabotaggio, lo vede davanti al fuoco, che piange, in mezzo alla neve. Redè, ma che hai fatto? Che te piangi? Che me piango? Sono arrivati un centinaio di partigiani da Roma. E che gli dai da mangiare a 100 partigiani romani sul Monte Tancia? Reden Tomasci dice che questi da Roma volevano mangiare bene. Dice che loro avevano sofferto tanto a fame per mantenersi onesti. Fatto sta che Redento si ammala, broncopolmonite, scende dal Tancia e non ci torna più. Ma i partigiani di Roma portano qualcosa, portano un po' d'organizzazione, portano la politica. Quando arrivano i partigiani romani, Sul Monte Tancia ci stanno decine di ragazzi e insieme a loro uniscono tutte quante le formazioni della Sabina che vanno da Pacone a Poggio Mirteto. I partigiani romani realizzano la formazione d'Ercole Stalin, uniscono tutte le brigate partigiane e creano questa formazione che arriva a contare 200 elementi. A Roma intanto dei due gap centrali se ne riforma uno solo per organizzare un colpo contro i tedeschi e un altro contro i fascisti. L'attacco ai fascisti salta, quello contro i tedeschi rimane. È il 23 marzo del 44. In via Rasella c'è un uomo vestito da spazzino, ha un carretto, due bidoni, dentro uno dei due bidoni ci stanno 18 kg di tritolo. Quello spazzino lì è Rosario Bentivegna. Sta lì a via Rasella e aspetta una colonna della SS Polizei di 160 uomini che passa tutti i giorni per il centro di Roma armata fino ai denti cantando. Sta lì e aspetta le tre e mezza, poi il segnale, accende la miccia, 50 secondi, il tempo calcolato che i tedeschi impiegano dall'angolo per arrivare tutti quanti torno al carrettino. 50 secondi, Bentivegna si allontana, gira l'angolo, dietro l'angolo c'è Carla Capponi che lo aspetta con impermeabile per coprirla tutta da spazzino. Nella tasca c'è già una pistola, già senza sicura, come indossa l'impermeabile e l'esplosione. Escono dagli angoli gli altri partigiani che lanciano sui tedeschi bombe a mano, alla fine ci saranno 30, 31, 32, poi 33 tedeschi uccisi. Il giorno dopo, 24 marzo, tutto è tranquillo a Roma, non si sente niente in giro. Il giorno dopo ancora, 25 marzo, esce sul Messaggero di Roma un articolo: per ogni tedesco ucciso, 10 criminali comunisti badogliani verranno fucilati. L'ordine è già stato eseguito. E muoiono così 335. 5 sono in più. Ormai ci sono. Maranire come dei fari che basta da te, di rosa ne ha fari, di rosa ne ha fari. Vittorio Cortese, il ragazzino di 15 anni, oggi ha un appuntamento galante con una ragazza di Montopoli. Fra Poggiani e Montopolesi non è mai tirata buona aria, però l'appuntamento va bene, va molto bene, la cosa va un po' per le lunghe, un po' troppo per le lunghe. Insomma, Vittorio Cortese fa tardi, torna a casa, bussa, non apre nessuno. Tesoro, bussano, sarà Vittorio, vorrà entrare. Papà, so io, papà, oh, mi apri. Si riapre domani mattina alle 7. Sono state distrutte le frazioni di Cepparo e Pace, il centro comunale di Poggio Bustone e Villa Pulcini e Albaneto di Leonessa ed accertate sedi di nuclei ribelli. Vari elementi sono stati fucilati sul posto perché trovati in possesso di armi. Sono stati individuati numerosi componenti di bande ed uno dei capi, di nazionalità montenegrina. Sono stati rastrellati e tradotti a Rieti 600 elementi, dei quali 200 catturati nella zona di Cascia. Il rastrellamento verrà esteso domani alla zona del Tancia, oggetto attività dei ribelli, posta da campo del 6 aprile 1944. Il 6 aprile del 44 Vittorio Cortese ha un'idea bellissima: salire su al Monte Tancia. Eh sì, perché la sorella nel frattempo era morta, quindi Peppino Savelli, il partigiano, non era più sceso a trovarli. E allora Vittorio Cortese decide di fare un salto su, sul monte. Parte da Poggio Mirteto, supera la frazione di San Valentino, entra nel bosco e a un certo punto si trova davanti due partigiani che non sono di... Chi sei? Cosa vuoi? Non è un luogo per passeggiate questo. Vittorio, sono Vittorio. Vittorio Cortese cercò Peppino Savelli. Arrivati da Peppino tutto si chiarisce, sta lì sul monte tutto il giorno, poi pure oggi insomma si comincia a far tardi. Ma tu vai, resta qui, domani ti riaccompagno io a casa, dormi qua con noi sul monte. No, guarda, papà si arrabbia. No, resta qua, dai, domani ci parlo io con tuo padre. No, meglio che vado. Vittorio Cortese inizia a scendere giù dal Monte Tancia, si sta facendo tardi, è quasi buio, scende giù in mezzo al bosco. Arriva nella frazione di San Valentino, ci stanno le case, si sente più tranquillo, però è veramente tardi. Guarda che papà mi lascia fuori anche stasera. Allora inizia giù a correre, giù lungo la discesa, corre come un pazzo e davanti all'incrocio con le scuole medie vede tutti i tedeschi che salgono in fila indiana. decine, centinaia di tedeschi che salgono su verso il Monte Tancia. Allora Vittorio Cortese corre a casa, supera la piazza, Porta Farnese, Palazzo Arcivescovile, casa. Papà, papà! Papà gli dà due sberle, lo chiude a casa. E papà era il guardiano del carcere, quindi c'aveva la fascetta con scritto poliziai, con quella può uscire, anche se c'è il coprifuoco. Esce fuori, vuole avvertire qualcuno, vuole avvisare qualcuno. Dopo mezz'ora torna, butta la fascetta sul tavolo e... andiamo a dormire, dice. Non ha avvertito nessuno. Non è riuscito a parlare con nessuno. E la mattina dopo si svegliano con gli spari. Rieti, Hotel 4 Stagioni, Platz Commander tedesco. Ludwig Schanze e Ermanno Di Marciano devono dare un nome all'operazione. Come si fa senza? Un nome ci vuole, però deve essere una cosa originale, no? Che rimane Poi vedono sul calendario che l'operazione coincide con la settimana di Pasqua del 44. Hostegai! Uovo di Pasqua. L'operazione che va dal 29 marzo al 7 aprile del 44, che interessa tutto l'Appennino centrale, si chiama Operazione Hostegai. Uovo di Pasqua. Viene utilizzata una forza enorme, pare un'intera divisione tedesca più alcuni battaglioni fascisti. L'operazione ha un doppio valore: per i tedeschi è un'operazione militare, devono bonificare il terreno dietro Cassino in vista della ritirata; per i fascisti è un'operazione politica e di polizia. Il 7 aprile, prima dell'alba, proprio sotto l'Arcucciola, che è il monte pieno espugnabile dove i partigiani hanno l'ultima difesa, proprio sotto all'Arcucciola c'è una piccola frazione di Monte San Giovanni. Sono poche case, 5-6 famiglie, pastori. A quell'ora, prima dell'alba, gli uomini già stanno sul Monte Cosce con le bestie. E gli abitanti lì sono donne, bambini, vecchi. E li vedono i tedeschi arrivare giù lungo la valle. Raccontano che tutti gli armetti rilucevano con la luce del sole che sorgeva. E allora che fai? Scappa, prendi i figli, quello che hai, e corri su. Devono raggiungere Valle San Gemini e arrivare su dai mariti che stanno su ai pascoli, su ai prati di Poggio Perugino. Pasqua, buona casata, però ha 7 figli. Prende la più piccola di pochi mesi, la avvolge nel cappotto del marito e scappa, corre su anche lei contro ordine delle SS. Li prendono e li portano tutti quanti giù, indietro. Li chiudono nella chiesetta di Sant'Angelo. 7 aprile, Monte Tancia. I partigiani hanno 3 punti di avvistamento: uno sopra Poggio Mirteto, uno sopra Poggio Catino e uno sull'Arcucciola, verso Rieti. Alle 4 del mattino il punto di avvistamento sopra Poggio Mirteto dà l'allarme. Si sente gente, sta arriva qualcuno, vengono inviati rinforzi e inizia la battaglia. A Poggio Mirteto, intanto, i tedeschi sono ovunque in paese. Prendono la guardia del paese e si fanno accompagnare. Hanno una lista di persone da cercare, partigiani. Ma i partigiani stanno quasi tutti su, al monte. Si fanno accompagnare. Questa è la prima casa, bruciate! Questa è la seconda casa, bruciate! Questa è la terza casa, ma sopra ci abito io, Portare fuori i mobili e bruciare! Gli uomini sul Monte Cosce, che stavano su ai pascoli con le bestie, sentono i rumori della battaglia e si affacciano e vedono che le loro case, giù, sono tutte in fiamme. Gli animali rimasti giù nella piccola frazione di Monte San Giovanni, gli animali rimasti giù li hanno tutti uccisi, ma le loro mogli, i loro figli, i loro genitori sono ancora lì e sono vivi. Stanno tutti chiusi nella chiesetta di Sant'Angelo, pregano. Il 7 aprile del 44 è Venerdì Santo, pregano. Pregano come prega una persona che sta per morire. Intanto i partigiani sul Monte Tancia non ce la fanno più a tenere l'avanzata dei tedeschi e si ritirano, lenti. Non è una fuga, non devono dare l'idea di una fuga, si ritirano lenti, vanno verso Casale Ferri, devono raggiungere il campo base di Roccopiano e poi arrivare tutti quanti su all'Arcucciola, dove c'è l'ultima difesa. Gian Antonio Pellegrini Cislaghi, 16 anni. Lui è partito di nascosto dal nord Italia, ha lasciato una lettera alla mamma. Vuole liberare l'Italia, lui vuole superare la linea del fronte e salire su con gli alleati e liberare tutta la penisola. A Roma lo fermano, ma dove vai, c'hai 16 anni. Lo mandano sul Monte Tancia perché è più sicuro. In combattimento sopra San Valentino perde 2 dita. Lo arrestano e lo portano in un garage in piazza a Poggio Mirteto. A Poggio Mirteto intanto i tedeschi cercano 2 persone in particolare. Cercano Diego Eusebi e Giuseppe De Vito. Perché li cercano? L'ingegner Pocobelli, figlio della gerente dell'ufficio postale, ha aperto alcuni giorni prima una lettera riservata indirizzata alla Federazione Fascista di Rieti. Nella lettera c'è scritto che Diego Eusebi deve essere liberato perché è assiduo rifornitore di generi alimentari ai partigiani del Tancia. Lo vanno a cercare a casa, apre la mamma E Diego sta... E la mamma mica lo sa che Diego fa il partigiano. E ne cercano un altro. Cercano Giuseppe De Vito, il podestà. Ma perché lo cercano? Alcuni giorni prima, ermano di Marciano, capo fascista della provincia, ha chiesto al podestà di Poggio una lista di persone da poter prendere come ostaggi. De Vito spedisce al capo fascista della provincia la lista dei fascisti più in vista del paese. E no, queste cose a ermano di Marciano non si fanno. De Vito lo vanno a prendere a casa, era stato colpito da infarto al miocardio, lo arrestano a casa, lo portano via, la moglie insegue questi qua e cerca di fermarli, li insegue cercando di fare una puntura al marito e questi qua la cacciano via. Allora la moglie di De Vito s'apre il trench e gli fa: io non mi vergogno di questi, i tedeschi, che fanno la guerra, mi vergogno di voi, vigliacchi. E gli sputa addosso ai fascisti, poi coi calci del fucile la mandano via. Fatto sta che poi quel garage in piazza lo svuotano a Poggio Mirteto, li vigliano tutti e li portano su, a Rieti. Sull'Arcocciola intanto la battaglia continua, dura già da diverse ore. Adesso tutti quanti i partigiani del Monte Tancia sono tutti quanti su, sull'Arcocciola, lì c'è il punto più inespugnabile, lì le ultime due mitragliatrici rimaste, una Breda a nastro che si inceppa sempre e una mitragliatrice a tamburo di fabbricazione russa. Comanda il gruppo di partigiani dell'Arcocciola, lo comanda Bruno Bruni, il più grande dei fratelli Bruni. Il piano di difesa vuole che in caso d'accerchiamento devono concentrare tutti insieme il fuoco, tutti nella stessa direzione, giù verso il ponticello di Tancia, il punto più scosceso. Sparano tutti insieme nello stesso punto, rompono l'accerchiamento e si gettano giù nel dirupo, e a decine si salvano. Rimane sull'Arcocciola il gruppo di partigiani romani. Rimangono lì, fuoco di copertura. Poi, dopo un po', arriva anche per loro l'ordine di ritirarsi. Glielo porta Eugenio Meneghino, che era il partigiano che per primo aveva dormito su da solo al Tancia. Glielo porta lui l'ordine, ma adesso non devono più buttarsi giù nel dirupo insieme agli altri. Adesso che sono pochi, devono seguire Eugenio per i monti, perché la montagna, sa, conosci e non te vede nessuno. Devono seguirlo e sbucare verso Castel San Pietro. Eugenio Meneghino dà a loro l'ordine di ritirarsi e partono. Meneghino davanti, i partigiani di Roma dietro. Ma poi questi qua di Roma sentono che la loro mitragliatrice spara ancora. Spara ancora. Chi è rimasto? Chi è rimasto? Miro! È rimasto Miro! I partigiani di Roma tornano indietro a chiamare Miro. Meneghino non se ne accorge e prosegue da solo verso Castel San Pietro. Arrivano alla postazione della mitragliatrice, ma non c'è più nessuno. Miro ha sparato le ultime cartucce, poi ha passato dalla capanna, ha preso un filone di pane, una pizza di formaggio e si è gettato giù nel dirupo e si è salvato. Ma adesso i tedeschi hanno chiuso l'accerchiamento, Meneghino è andato avanti da solo e questi di Roma la strada non la conoscono e sono completamente circondati. Tu alla mitragliatrice, tu alla... Ma che ti spari, che le munizioni sono finite da un pezzo. E i partigiani dell'Arcucciola, i partigiani romani, sono stati tutti quanti uccisi con un colpo alla nuca, un'esecuzione, uccisi così, tutti e sette. Solo sette? Decine di ore di battaglia, forse centinaia di tedeschi uccisi e solo sette partigiani. I civili di Monte San Giovanni stanno chiusi nella chiesetta di Sant'Angelo. Donne, vecchi e bambini stanno lì e sono vivi, sono lì e sono vivi. E poi escono 15 persone in fila indiana. Fanno 200 metri in salita, arrivano nel piazzale dove c'è la fontana, dove ci si abbeverano le vacche. E come fai? Come fai? C'è una donna incinta di 7 mesi, una ragazzina di 3 anni. C'è un ragazzetto di 10 anni che inizia a correre, scappa, corre, corre. Italo Calvino, nel sentiero dei nidi di ragno, diceva che se vieni colpito mentre corri non te ne accorgi subito. Allora c'era il protagonista che mentre correva per scappare si guardava addosso per vedere se l'avessero colpito. Un ragazzino di 10 anni, corre, corre. 14 persone. Ma come fai? Poi cala la notte. I tedeschi se ne sono andati via. I pastori che stavano sul Monte Cosce scendono dalla montagna e ritrovano i corpi abbracciati per famiglie. I corpi che non si staccano più. Seppelliamoli in chiesa, hanno distrutto pure la chiesa. Vabbè, seppelliamoli vicino. C'è l'ordine tedesco di lasciarli insepolti 30 giorni. No, no, scava per terra, c'è la roccia sotto, ma bisogna fare in fretta. I tedeschi possono tornare. A Giovanni Bonacasata però mancano 2 figli. Che ne manca uno di 10 anni e un'altra ragazzina di pochi mesi. Poi insieme a Capparella vede poco lontano dei corvi neri che volano. E ritroverà il figlio, quello di 10 anni. I vermi avevano già attaccato, racconta. E poi gliene manca ancora una, dei pochi mesi. Poi vede il suo cappotto per terra vicino a un pagliarozzo. Lo prende, ma è pesante il cappotto. Lo apre e dentro c'è sua figlia di pochi mesi, è viola in volto, non prende il latte da ore, ma è viva. E i partigiani del Tancia? Quelli su all'Arcucciola? Quelli su, per un po' di tempo, non li seppellisce nessuno. Proprio quel giorno della battaglia, però, Giuseppe Felici sta tornando a Poggio Mirtilito, da Terni. Quelli della Gramsci gli hanno detto che è un suicidio organizzare un assalto al carcere a Rieti, che non si può fare. Allora Giuseppe Felici prende, riparte, torna a Poggio Mirtilito, almeno lì c'è gli amici suoi. Nei pressi di Cantarice però c'è una pattuglia tedesca e Giuseppe Felici è armato, e allora spara, Giuseppe Felici spara, ma viene colpito, ha una gamba, ferito. I tedeschi lo arrestano e lo portano a lui al carcere di Santa Scolastica a Rieti, dove quella notte trova dentro al carcere Gian Antonio Pellegrini Cislaghi di 16 anni, il podestà De Vito e il suo amico Diego Eusebi. Il giorno dopo, 8 aprile, è la vigilia di Pasqua. Testimoni affermano che c'è stata una strana e lunga esercitazione di tiro nel poligono di Fonte Cottorella, dove è il presepe più grande del mondo, lì a Rieti. Nel pomeriggio dell'8 aprile, invece, un ufficiale italiano ha un compito semplice. L'ufficiale italiano deve andare nella zona dell'aeroporto, in località Quattro Strade. L'aeroporto di Rieti è stato bombardato, l'ufficiale italiano deve individuare una grossa buca, la più grossa di tutte. La notte di Pasqua, 15 persone vengono fatte uscire dal carcere di Santa Scolastica a Rieti, caricate su un camion. Il camion impiega 10 minuti per arrivare in località Quattro Strade, rituale nazista. Le torce sono già pronte, i detenuti scendono sull'orlo della buca e non muoiono tutti subito. Alcuni gridano e cercano di nascondersi sotto il corpo di quelli che sono già morti. Il giorno dopo, 9 aprile, è Pasqua. Ermanno Di Marciano, il capo della provincia di Rieti, il capo fascista, non si vede in giro. Non si vede neanche Renato Tuzzi, il capo fascista di Poggio, trasferito da poco per meriti antipartigiani a Rieti, pure lui, scomparso. Ma si sente di in giro che qualcosa quella notte, in località Quattro Strade, qualcosa quella notte è successo lì all'aeroporto di Rieti. Allora Don Ricci, il parroco di Poggio Mirtilito, che è amico del podestà, Don Ricci prende la macchina e va su all'aeroporto, sentinelle tedesche tutto intorno al perimetro, non può entrare nessuno. E devono passare 30 giorni perché Don Igino Guidi, il parroco di Bocchignano, abbia il permesso di salire su all'Arcucciola. Prende un foglio di carta e ci fa un cerchio, l'Arcucciola, e ci disegna 7 croci. Vicino a ogni croce mette il nome di un partigiano morto, cercando di riconoscerli, quello che era rimasto. Poi prende i resti e li seppellisce tutti lassù, dove ancora oggi c'è una fossa comune. Dopo la battaglia del Monte Tancia, la brigata d'Ercole Stalin sospende tutte le attività. A Poggio Mirtilito intanto la gente continua a vivere, ancora per un paio di mesi. Anche Vittorio Cortese, ragazzetto che oggi ha 16 anni, anche lui vive lì a Poggio Mirtilito. Però la guerra si sente, la guerra sta per finire. Sì, si vede, guarda i tedeschi, guarda che piano piano stanno a svuotare il deposito, quello alle elementari, sì, si vede, stanno a portare via la roba, sì, vedrà che tra poco la guerra finisce, sì, solo che i tedeschi non ce la fanno a portare via tutto. E allora un bel giorno una macchina passa per le strade di Poggio Mirtilito, pare con un altoparlante: l'esercito tedesco ringrazia la popolazione di Poggio Mirtilito, non potendo portare con sé tutto il contenuto del deposito, decide di donarlo alla popolazione. L'esercito tedesco ringrazia la popolazione di Poggio Mirtilito. Poco tempo le strade, le vie di Poggio diventano un tappeto di gente. Pure Vittorio Cortese inizia a correre e va giù alle scuole elementari. La fame era tanta. Vittorio Cortese entra nella prima stanza, ma è già vuota, già si sono presi tutto. Entra nella seconda stanza, in un angolo c'è stata tutta quanta gente che fa capelli per dei sacchi di farina, invece in un altro angolo della stanza ci stanno dei sacchi che non si via nessuno. Allora Vittorio Cortese, invece di mettersi a fa botte, va lì, vede sti sacchi che non si via nessuno, tabacco, vabbè, papà fuma, sarà contento. Esce fuori dalla scuola, ma come esce, Vittorio Cortese vede un soldato tedesco che spara una mitragliata in aria e scappa via. I tedeschi non se ne erano andati per niente. I tedeschi stavano sopra Colle Pulcino, su a Villa Marini, e dall'alto del colle, sopra Poggio Mirteto, guardano tutta la gente di Poggio Mirteto che come tante piccole formichine escono da casa, vanno giù, prendono qualcosa e le riportano. La gente di Poggio che va e viene, dietro ai mortai i tedeschi che guardano la gente di Poggio. E poi c'è un'esplosione lì davanti alla scuola, forte, violenta. Vittorio Cortese cade a terra, ma per terra è caldo, morbido. Apre gli occhi e vede Yolanda Dottori, la testa. Allora inizia a correre verso casa, ma le bombe cadono, ma lui deve correre verso casa. Passa dal lato giusto della piazza, lì non lo prendono le bombe. Un'altra esplosione dall'altra parte, davanti alla merceria con Forzi, vede Edelweiss Stopponi a terra con un piede che andava facendo così, andava facendo, e grida, ma lui deve correre a casa. Allora porta Farnese, Palazzo Arcivescovile, casa, mamma, che hai fatto, stai bene? Sì, mamma, il sangue non è mio, è di... Che hai fatto? Dov'è tuo fratello? Dov'è mio fratello, ma? Allora Vittorio Cortese esce fuori e lo cerca e lo chiama, Costante! E le bombe cadono e lui lo chiama, Costante! Un'altra esplosione forte, e vede Sergio Lombardini, un amico suo dei 16 anni, con la gamba che gli è rimasta attaccata al corpo da un pezzettino di carne, vede che i parenti lo caricano su una carretta di legno. Portiamoli all'ospedale, hanno distrutto pure l'ospedale, hanno bombardato pure quello. E dov'è il dottore? Dov'è il dottore? Dove cazzo sta il dottore? E il dottore non c'è. Spiridione Stoppoloni, fascista. Dopo la morte di De Vito è lui che diventa podestà, ma quando i tedeschi scappano verso nord, scappa anche lui. Il dottore non c'è. Oscar Laus, farmacista, e il dottor Pellecchia, dentista, sono loro che curano i feriti, li portano nella chiesa di San Giovanni, dentro Poggio Vecchio. Ed Elvis Stopponi, la ragazza ferita lì, che ha perso un piede lì davanti alla merceria con Forzi, lei è la fidanzata di Eugenio Meneghino, che era alla guida su del Tancia, quello che la prima notte ha dormito da solo. E poi gli dicono a Eugenio: Eugenio, gli americani, gli inglesi stanno giù a Poggio Scalo. Allora Eugenio parte a piedi perché la strada era minata, ritorna dopo un'ora con un'ambulanza. Ma per Edelweiss Stopponi, la fidanzata di Eugenio, era troppo tardi. Vittorio Cortese aveva 16 anni, quel giorno che a Poggio Mirteto, in piazza Martiri della Libertà, sono morte 15 persone. Vanno sempre più su verso nord, gli americani dietro, i fascisti pure che scappano. Però la guerra non è ancora finita. Antonio Onofri cerca suo figlio Adamo Onofri, scomparso la settimana di Pasqua del 44. Dei cantonieri gli dicono che hanno visto strani movimenti nella zona dell'aeroporto a Rieti. Allora va lì Onofri e va a vedere. Adesso i tedeschi sono scappati, non ci stanno più le sentinelle intorno al perimetro. Entra dentro l'aeroporto e vede che tante buche sono state ricoperte, ma da una buca, da un bombardamento, da una buca ricoperta, entrano ed escono tanti mosconi, tanti, troppi. Avverte le autorità. Gli scavi iniziano il 13 luglio. Tante buche le hanno ricoperte, ma sono vuote. Poi, alle 3 del pomeriggio, affiora il primo cadavere. 15 corpi. La pelle era divenuta di colore grigio, le scarpe non si staccavano più dai piedi. C'era anche il rischio di attribuire a un cadavere il pezzo di un altro cadavere. 4 non sono stati mai riconosciuti. Le fosse reatine. Ma qua i responsabili ci stanno, eh. Oh, che fine ha fatto Renato Tuzzi? Dov'è Ermanno Di Marsciano? Scappano tutti verso nord i fascisti. Ermanno Di Marsciano va a Imperia, anche lì diventa capo della provincia. Viene arrestato nel 1947 in un convento a Montesanto, vicino Todi. Anche Tuzzi viene arrestato. Signor Tuzzi, dove ha trascorso la notte di Pasqua del 44? Ero in caserma a Rieti, non mi sono mosso. No, anzi no, quella notte sono stato ai funerali di un aviere tedesco al cimitero di Rieti. Il custode del cimitero conferma, sì, c'è stato un funerale, ma non hanno partecipato militari italiani. E comunque il funerale c'è stato di giorno, non di notte. Testimoni affermano di averla vista ritornare all'alba, la mattina di Pasqua, da una missione, stanco e impolverato. Il test, Alfonso Calvani, dice d'averla sentita vantarsi, d'aver sistemato tre di Poggio Mirteto, proprio i tre che rispondono ai nomi di De Vito, Eusebi e Felici. E beh, sistemato, mica ucciso. Renato Tuzzi viene assolto per insufficienza di prove, ma viene condannato per furto, perché il papà di Giuseppe Felici, da Dachau, torna vivo e lo denuncia. Lo denuncia almeno per il furto della catenina d'oro che aveva al collo. Anche Ermanno Di Marciano, il capofascista della provincia, viene processato. Il riassunto delle accuse, il riassunto, sono due pagine e mezzo di libro. Alla fine viene condannato a 30 anni, ma di questi 21 gli vengono condonati. La relazione finale dell'operazione Osterai, uovo di Pasqua, la relazione fascista, dice che in totale nella provincia di Rieti quella settimana sono state arrestate 698 persone e che 296 banditi sono stati uccisi. Ma sempre dalla stessa relazione si legge che in totale le armi sequestrate sono state 3 mitragliatrici e 25 fucili. 296 banditi. Non erano banditi, erano civili, italiani, in lotta. adesso socchiudo nel mio unico angolo un antico profumo di radici ancor vive, e mi vien da pensare a quello che un giorno ho fatto e sognato, forse per un dolce ritorno.